Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Agalbato legge Bel Ami di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. Norbert de Varenne parlava con voce nitida, ma in sordina. Una voce che avrebbe destato echi nel silenzio notturno se lui non l'avesse moderata. Appariva sovreccitato e triste, in preda a quella tristezza che s'abbatte talvolta sugli animi e li rende pronti a vibrare come la terra sotto il ghiaccio. Che importa del resto, un po' più o un po' meno d'ingegno, se tutto è destinato a finire? E tacque. Duroy, che quella sera aveva l'allegria nel cuore, disse sorridendo: «Lei è piuttosto nero oggi, caro maestro». Il poeta rispose: «Lo sono sempre, ragazzo mio, e lo sarà anche lei fra qualche annetto. La vita è un monte. Finché si sale si guarda la vetta e ci si sente felici, ma quando si arriva lassù si scorge d'un tratto la china e giù in fondo la fine, che è la morte. L'ascesa è lenta, ma la discesa è un ruzzolone. Alla sua età si ha il cuore contento, si spera in un mucchio di cose, anche se non s'avvereranno mai. Alla mia età non ci si aspetta più nulla, tranne la morte». Duroy si mise a ridere. «Capperi, mi fa venire un brivido nella schiena». Norbert de Varenne rispose: «No, lei oggi non può capirmi. Ma più in là ricorderà le mie parole di adesso. Viene un giorno, vede, e per molti viene molto presto, in cui la festa è finita, come si suol dire, perché dietro tutto quel che si guarda una sola cosa si scorge: la morte. Alla sua età essa non significa nulla, alla mia è una parola tremenda. Già, la si comprende d'improvviso, senza sapere perché né a proposito di che. E allora nella vita tutto cambia aspetto. Son 15 anni io che sento la morte lavorarmi come se avessi dentro un tarlo roditore. Poco alla volta, un mese dopo l'altro, ora per ora, l'ho sentita minarmi come una cosa che si sta sfasciando, ma talmente sfigurato che io non mi riconosco più. Nulla è rimasto di me, dell'uomo raggiante, fresco e forte che ero a 30 anni. L'ho vista tingermi di bianco i capelli neri, e con quale sapiente e perfida lentezza. Essa si è portata via la mia carne soda, i miei muscoli, i miei denti, l'intero mio corpo d'una volta, lasciandomi soltanto, ma per portarsi via anche quella, presto, un'anima colma di disperazione. Sì, ma ha ridotto in briciole l'immonda. Ha compiuto lenta e terribile la lunga opera di distruzione della mia persona, attimo per attimo. E ora m'accorgo di morire in ogni mio atto. Ogni mio passo m'avvicina a lei, ogni mio gesto, ogni mio respiro affretta il suo odioso compito. Respirare, dormire, bere, mangiare, lavorare, sognare, tutto quel che facciamo è un morire. Insomma, vivere è morire. Rifletta soltanto un momento, e anche lei la vedrà dappertutto, la morte. Che cosa s'aspetta? Amore? Ancora qualche bacio, e poi lei sarà un impotente. E dopo? Denaro? Perché farne? Per pagar delle donne? Bella soddisfazione. Per mangiar molto, diventare obeso e gridar per nottate intere sotto il morso della gotta? E appresso? Un poco di gloria? E a che serve quando non la si può più cogliere sotto forma d'amore? E poi, ancora e sempre la morte a chiuder baracca e burattini. Io adesso me la vedo così vicina che spesso mi verrebbe voglia d'allungare un braccio per spingerla indietro. Essa ricopre la terra e riempie lo spazio. La scopro dovunque. Essa mi sciupa tutto ciò che faccio. tutto ciò che vedo, tutto ciò che mangio o che bevo, tutto ciò che amo, i pleniluni, le albe, il mare aperto, i bei fiumi e la brezza delle serate estive, così dolce a respirare. Camminava adagio, con un lieve affanno, pensando ad alta voce, quasi dimentico che qualcuno lo stava a sentire. Norbert de Varenne si fermò, prese Duroy per i risvolti del cappotto e con voce lenta aggiunse: «Mediti su tutto questo, giovanotto. Ci mediti sopra per parecchi giorni, mesi e anni, e vedrà la vita in maniera diversa. Cerchi di liberarsi da ciò che lo imprigiona, compia il sovrumano sforzo d'uscir mentre è vivo dal suo corpo, dai suoi interessi, dai suoi pensieri e dall'umanità tutta intera per rivolgere lo sguardo altrove. E allora capirà quanta poca importanza abbiano le dispute fra romantici e naturalisti e le discussioni sul bilancio». Riprese a camminare a passo svelto. «Ma anche lei proverà l'angoscia tremenda dei disperati. Si dibatterà, sperduto, affogato nelle incertezze. Griderà aiuto a dritta e a manca e nessuno le risponderà. Tenderà le braccia, invocherà per essere soccorso, amato, consolato, salvato e nessuno le verrà incontro. Perché dobbiamo soffrire così? Senza dubbio perché eravamo nati per vivere più in obbedienza alla materia che in obbedienza allo spirito. Ma a furia di pensare, si è creato uno squilibrio fra la nostra intelligenza ingigantita e le immutabili condizioni della nostra esistenza. Guardi la gente mediocre. Se non son grosse catastrofi a cader loro fra capo e collo, son beati e contenti, senza soffrire per la comune sventura. Neppure le bestie ne soffrono». Si fermò un'altra volta. Rifletté per qualche istante. Poi, con voce stanca e rassegnata, fece: «Io sono un uomo alla deriva. Non ho né padre, né madre, né fratelli, né sorelle, né figli, né Dio». Raggiunsero il Pont de la Concorde. Lo attraversarono in silenzio. Poi fiaccheggiarono il Palais Bourbon. Norbert de Varenne ricominciò a parlare. «Prenda moglie, amico mio. Lei non sa che vuol dire vivere soli alla mia età. La solitudine oggi mi colma d'un'angoscia orribile. Il deserto in casa, presso il focolare la sera. Mi sembra d'essere solo sulla terra, orribilmente solo, ma assediato da oscuri pericoli, da cose sconosciute e terrificanti. E la parete che mi separa dal vicino che non conosco me lo rende lontano quanto le stelle che scorgo dalla finestra. Qualcosa come una febbre m'entra nelle ossa, una febbre di dolore e di timore, e il silenzio delle mie mura mi sgomenta. È così profondo e così triste il silenzio della stanza dove si vive soli». Fece un'altra pausa, poi aggiunse: «Quando si è vecchi, ci vorrebbero proprio dei bambini». Erano giunti circa a metà di Rue de Bourgogne. Il poeta si fermò davanti ad un alto fabbricato. Suonò. Strinse la mano a Duroy e gli disse: «Dimentichi questa mia senile tiritera, caro giovanotto, e viva come si deve vivere alla sua età. Buonanotte!» E scomparve nel buio del portone. Duroy si rimise in cammino col cuore piccolo piccolo. Era come se gli avessero mostrato una fossa piena di teschi e di tibie, una fossa in cui anche lui sarebbe inevitabilmente caduto un giorno. Mormorò: «Cribbio, non deve essere allegra a casa sua. Non vorrei proprio avervi, porco cane, un palchetto per assistere alla sfilata delle sue idee». Ma fermatosi per lasciar passare una signora tutta profumata che era scesa di carrozza per rincasare, aspirò a pieni polmoni l'odor di verbena e di giaggiolo sparsosi nell'aria. Il petto e il cuore gli si gonfiarono d'un tratto di speranza e di gioia, e il ricordo della signora de Marelle, che avrebbe rivisto l'indomani, gli corse in ogni vena. Tutto gli arrideva, la vita lo accoglieva amorevole. Com'è bello poter realizzare le proprie speranze! La signora De Marello lo ricevette porgendogli le labbra, come se fra loro non fosse avvenuta nessuna rottura, e dimentica perfino, per qualche po', della saggia prudenza che di solito opponeva in casa sua alle espansioni. Poi gli disse, baciandogli le punte arricciate dei baffi: «Lo sai il guaio che m'è capitato, tesoro? Speravo in una bella luna di miele, ed ecco che mi capita fra capo e collo mio marito per 6 settimane. S'è preso un congedo. Ma io non voglio stare 6 settimane senza vederti, soprattutto dopo il nostro piccolo screzio. Ed ecco come ho sistemato la faccenda. Tu verrai a pranzo da me lunedì. Gli ho già parlato di te. Ti presenterò». Duroy riluttava, piuttosto perplesso, non essendogli ancor capitato di trovarsi a faccia con un uomo del quale si portava a letto la moglie. Temeva che qualcosa potesse tradirlo. Un attimo d'imbarazzo, un'occhiata, un'inezia qualsiasi. «Perché la cosa appaia più naturale», aggiunse lei, «ci saranno anche i forestier, sebbene non mi piaccia troppo ricever gente in casa». Fino a lunedì Duroy non si preoccupò granché dell'incontro, ma ecco che, salendo le scale della signora De Marel, si sentì stranamente turbato, non perché fosse restio a stringere la mano di quel marito, a berne il vino e a mangiarne il pane, ma per un oscuro timore, senza saper nemmeno lui di che. Fu fatto passare in salotto e attese come ogni altra volta. Poi l'uscio s'aprì ed egli scorse un uomo alto, con la barba bianca e una decorazione, che grave e corretto gli andò incontro con estrema cortesia. «Mia moglie m'ha parlato spesso di lei e son felice di conoscerla». Duroy si fece innanzi, cercando di dare al suo volto un'espressione cordiale, e con esagerata energia strinse la mano che l'ospite gli aveva porto. Poi si mise a sedere senza saper che dire. Il signor De Marel rimise un pezzo di legna al fuoco e domandò: «È da molto tempo che lei fa il giornalista?» Duroy rispose: «Soltanto da qualche mese». «Ha fatto una rapida carriera, allora?» «Sì, abbastanza». Guardava il volto serio e rispettabile del signore De Marel, con una gran voglia di ridere a fior di labbra, e pensava: «Ti farò un bel paio di corna, bello mio, un bel paio così!» E lo pervadeva un'intima perversa soddisfazione, la gioia del ladro che l'ha fatta in barba a tutti quanti, una gioia perfida ma deliziosa. La signora De Marel entrò all'improvviso e, avvolgendo i due con un'occhiata allegra e impenetrabile, s'avvicinò a Duroy, che non osò davanti al marito baciarle la mano come era solito fare. Quando giunsero i forestier, tutti rimasero impressionati dalle condizioni di Charles. In una settimana era spaventosamente dimagrito e impallidito, e la tosse non gli dava tregua. Annunziò che sarebbero partiti per Cannes il giovedì successivo per ordine esplicito del medico. Si ritirarono presto e Duroy disse, scuotendo il capo: «Mi sembra ridotto maluccio. Mica deve averne per molto». La signora De Marel affermò pacata: «È un uomo finito, anche se ha avuto la fortuna di sposare una donna come la sua». Duroy domandò: «Lo aiuta molto? Dica pure che gli fa tutto lei. È informata di tutto, conosce tutti, anche se par che non veda mai nessuno. Ottiene sempre quello che vuole, come vuole lei e quando vuole lei. Ed è fina, scaltra, intrigante quant'altre mai quella lì. Un autentico tesoro per uno che voglia far strada». Duroy si ritirò, turbato in cuore e con la mente ingombra di vaghe possibilità per il suo futuro. Andò l'indomani a far visita ai forestier e li trovò che avevano appena finito di preparare le valigie. Charles, disteso sul divano, esagerava di proposito la sua difficoltà di respirazione, ripetendo: «Avrei dovuto essere già partito da un mese!» Poi snocciolò a Duroy una sfilza di raccomandazioni per il giornale, quantunque tutto fosse già stato regolato e sistemato con Voltaire. Georges, prima d'andarsene, strinse calorosamente la mano al suo ex compagno d'armi. «Beh, vecchio mio, a presto!» Ma alla signora Forestier, che lo aveva accompagnato alla porta, disse animatamente: «Non ha dimenticato il nostro patto, vero? Noi siamo amici e alleati. Perciò, se lei avrà bisogno di me in qualsiasi occasione, non faccia complimenti. Un telegramma o una lettera e sarò ai suoi ordini». Febbraio volgeva alla fine. Si cominciava a sentire il profumo delle violette per strada, passando accanto ai carretti delle fioraie. Duroy viveva senza una nube nel suo empireo. Una notte, rincasando, trovò una lettera infilata sotto la porta. Guardò il timbro e vide Cannes. L'aprì e lesse: «Gentile signore, caro amico, lei mi disse, vero, che potevo contare sul suo aiuto in qualunque occasione. Ebbene, ho una dolorosa preghiera da farle. Venga ad aiutarmi, non mi lasci sola negli ultimi istanti di Charles, ormai condannato. Forse non ce la farà nemmeno ad arrivare alla fine di questa settimana, sebbene si alzi ancora. Il medico m'ha avvertita. Io non ho più né la forza né il coraggio d'assistere giorno e notte alla sua agonia, e penso con terrore all'ora estrema che sta avvicinandosi. Soltanto a lei posso chiedere questo favore, giacché mio marito non ha più nessun parente. Lei è il suo vecchio compagno d'armi, ed è stato Charles ad aprirle le porte del giornale. Venga, la supplico. Non saprei a chi altro rivolgermi. Mi creda, sua amica devotissima, Madeleine Forestier». Georges Duroy partì per Cannes l'indomani col rapido delle 7, dopo aver avvertito i Desmarets con un telegramma. Arrivò il giorno dopo verso le 4 del pomeriggio. Un facchino lo accompagnò fino a Villa Grazia, costruita a mezza costa, nella betaia gremita di casette bianche che si estende dal Canet al golfo di Juan. Il domestico aprì la porta ed esclamò: «Oh, sapesse con quanta impazienza l'attende la signora!» Duroy domandò: «Come sta il padrone?» «Ah, non bene, signore, non ne avrà per molto!» Un fruscio di vesti lo fece voltare. La signora Forestier gli tese entrambe le mani. «Com'è stato gentile a venire!» E improvvisamente gli diede un bacio. Poi rimasero a guardarsi. «È diventato insopportabile», gli disse. «Si sente condannato e mi tiranneggia in modo atroce. Gli ho detto del suo arrivo. Ma la sua valigia dov'è?» Duroy rispose: «L'ho lasciata alla stazione, non sapendo quale albergo lei m'avrebbe consigliato per esserle vicino». La signora Forestier esitò, poi disse: «Lei alloggerà qui, nella villa. La sua stanza, del resto, è già pronta. Charles può morire da un momento all'altro, e se succedesse di notte, mi troverei sola. Manderò a prendere i suoi bagagli». La signora Forestier aprì una porta al primo piano, e Duroy scorse vicino ad una finestra, seduto su una poltrona e avvolto nelle coperte, livido nel riverbero rosso del tramonto, una specie di cadavere che stava fissandolo. Più che riconoscerlo, indovinò che era il suo amico. La stanza era piena d'un sentor di febbre, di tisana, d'etere, di catramina, l'indefinibile e pesante tanfo delle stanze dove respira un tisico. Forestier abbozzò un gesto lento e stanco con la mano. «Toh, sei qui?» disse. «Sei venuto per vedermi morire? Te ne sono grato».